Lupo Nair, Summer Spurgo. Ci si squaglia in questo luglio, ma questo non impedisce a Lupo Nair Summer Spurgo di andare in onda, o meglio di stare qui sul nostro podcast su archive.org, che è l'unico posto dove non ci rompono i coglioni noi dello staff estivo di Lupo Nair, cioè solo me, Vanni, e mentre fra me l'abbiamo ascoltato solamente all'inizio, rifacciamo ciao ciao con la manina, ci rivediamo a settembre. E ora abbiamo ascoltato per iniziare gli Uncanny Valley, una band post-punk dal Canada, Calgary, Alberta, che in un singolo che intitolato Puppet, remixato dagli Wants, quindi diciamo un piglio molto più yeye e discutecoso. E ora passiamo a tutt'altro con i KMFDM, è una storica band industrial metal, diciamo, dalla Germania, da Amburgo. È uscito da poco il loro 23esimo album, Let Go. Non si stancano mai sti cazzo di KMFDM. Vabbè, comunque, vabbè, noi ci vogliamo bene, poco, così, dai, si vuole bene, così, dai, se, per esperienza, su, un sorrisetto, fatelo, KMFDM, per il loro nuovo album, da cui ascoltiamo questo brano intitolato Totem EX, che vorrà di, non lo so. Line desperate. Lupo on Air, Summerspurgo. Thank you. Se di Tedin mi consiglia un disco, io lo ascolto. Punto. Questo disco è di Last Days of Burden, un giovanotto tedesco che non se la passa molto bene, evidentemente, e ha realizzato questa cosa di post-industrial ambient rituale veramente pesa, intitolata Mandrake Dreams, questo è il titolo dell'EP uscito su cassetta, da cui abbiamo ascoltato questo brano, branone, intitolato When All Is Finally Done, quando finalmente è tutto finito. Sì, dai, ottimismo, d'altronde siamo qua a Recanati, il mio studio è a 200 metri da quell'altro, che non era esattamente ottimista, era più che altro realista, ma non mettiamoci a parlare dei vicini di casa. Parliamo piuttosto dei Torrent, ho scritto Torrents, come si pronuncia, Torrent, perché sono francesi, si dichiarano post-punk surrealista, dal loro ultimo album Les Lois de Rennes, che dovrebbe essere Le Leggi del Bronzo, ci sarà un concept, non lo so, ascoltiamo il brano La Guerre puis la Tombe, che vorrà dire, non lo so, in francese commerciale non c'erano questi termini. Torrent. Lupon Air, Summersburgo. In realtà, anche se mi consigliano di squadre Recept, io gli do retta, e lui mi ha consigliato di ascoltare questo Ozone dei Humanizer, nuova promessa del hardcore rap underground, come avete potuto ascoltare, da questo brano intitolato Primo principio d'annullamento della luce. E adesso scopro proprio adesso in questo momento che sto ragazzo, che c'ha un Instagram chiamato Rosa Chemio, già siamo amici, viene da Ancona. Credo avrebbe mai detto che Ancona c'è qualcosa di bello, oltre a un luogo dove la gente si ammazza volentieri, che è il Passetto. Non lo so, pure a Pesaro c'è qualcosa di buono, incredibile. C'è Paolo Tarzi è uno che fa... synth pop? Diciamo così. È uscito un nuovo album intitolato A Natural Self per la Anitia Records. Da questo album ascoltiamo il singolo che ha addirittura lanciato quest'album. Quindi non solo l'avevo scelto io, l'ha scelto pure l'etichetta. Pensa te, deve essere proprio bello questo Opium di Paolo Tarzi. Summerspurgo. Emil and the Sniffers, una band degenerata di punk rock da Melbourne, Australia, sono amici dei Viagra Boys, quindi sono anche amici miei, hanno da poco pubblicato questo singolo dalla copertina meravigliosa You Should Not Be Doing That. Abbiamo ascoltato il lato B invece, che si intitola Facts, e ora che ci abbiamo Filth is Eternal, lo zozzo è eterno, arrivano da Seattle, Washington, USA, e che fanno casino, fanno molta caciara, si dichiarano alternative rock, ma è molto più grave quello che stanno facendo. Ascoltiamo il brano Half Wrong, loro sono i Filth is Eternal. Where? Where? Summersburgo. Sempre da Seattle arriva Mortal Realm, che è il progetto solista di Adam Jones e degli ex di Sterling Silicon, i grandi Sterling Silicon, chi se ne ricorda? Ha pubblicato da poco un album intitolato Step in the Dark, curtellata nel buio, e da quest'album abbiamo ascoltato il brano The Bitterness of Life. Isso era Mortal Realm, e ora sempre allegria con i Post Death Soundtrack, un simpatico gruppetto che arriva dal Canada, che fa psych, doom, grunge, stoner, c'ha chitarre, insomma. E dal loro album Veil Lifter, che è uscito da poco pochissimo, ascoltiamo il brano Pinprick. Fuck off! the phenomenon. Mirrors are the invisible force who creates to shatter the cosmic engine. The evil twins are destroying each other. Electric annihilation. Death construction. Mancava un po' di metallo a questa puntata di Lupo Nero Summerspurgo? Bene, l'abbiamo subito risolta questo problema con ascoltando un brano dell'ultimo album dei Zark da Oslo, Norvegia. L'album si titola End of Fate, l'ennesimo album, continuano infatti una decina, di questa band capitanata da Zark dei Cold, ma soprattutto con la voce, sto pure in prima fila nelle foto, Notturno Culto dei Darkthrone. Da quest'ultimo album dei Zark abbiamo ascoltato il brano Death Construction. E ora, niente, finito questo episodio di Lupo Nero Summerspurgo. Ci risentiremo giovedì prossimo, se Dio vuole, e io non ho nulla in contrario. E vi lasciamo, vi salutiamo con questo brano dei Plague Pits, che sono una band di Berna, Svizzera, che si dichiarano fare canti funebri disco per l'antropocene, e noi ci crediamo. Dal loro album, l'ultimo album Bucolic, ascoltiamo il brano Binary Stars. Loro sono i Plague Pits e questo è Lupo Nero Summerspurgo. Lupo Nair Summersburgo.